Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo chiaramente anche dalle dichiarazioni di Mario Draghi rese oggi, Presidente della Banca Centrale Europea, e dal mea culpa, devo dire un po' traballante, del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker sulla vicenda che ormai ha preso il nome di LuxLeaks, quindi la vicenda che ha coinvolto il Lussemburgo anche e soprattutto quando Juncker è stato presidente del Consiglio per 18 anni, se non ricordo male, è stato il premier del Lussemburgo. La vicenda l'abbiamo raccontata più volte, l'accusa che il Lussemburgo avrebbe preso accordi sotto banco per agevolare un flusso di capitali di grandi gruppi, non solo europei ma anche europei, in modo da portare una tassazione effettivamente, secondo quello che l'inchiesta ha dimostrato, intorno allo 0,40%, cioè il nulla, in uno Stato con già grosse agevolazioni fiscali. È ovvio che non c'è nulla di illegale in senso stretto da quello che vediamo. C'è la Commissione Europea che sta cercando di capire se siano aiuti di Stato, che è l'unica cosa su cui può intervenire, ma c'è un grosso problema, un grosso imbarazzo di carattere politico, perché pur non essendo illegale, vedremo se non c'è stata una violazione degli aiuti di Stato, è chiaro che il Presidente della Commissione Europea adesso che chiede armonizzazione fiscale diventa molto molto meno credibile se lui stesso, quando era Presidente del Consiglio del Lussemburgo, per anni ha agevolato questi accordi sotto banco per far pagare le tasse a chi non aveva diritto di pagare in Lussemburgo, nel senso che poi se tu dimostri attraverso i flussi di capitale che tutte le tasse vengono pagate lì, è chiaro che erodi quello che è il versamento fiscale nei paesi in cui il fatturato si era realmente, effettivamente verificato. Dicevo però, per quello che riguarda i temi di questa giornata, al di là di Draghi e Juncker, parleremo anche di banche, perché da questo punto di vista le autorità di vigilanza negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Svizzera hanno emesso a carico di 5 grandi banche mondiali, sono Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, HSBC e UBS, sanzioni per 3 miliardi e 300 milioni di dollari. Lo scandalo è lo scandalo famoso sull'accordo che le banche avevano preso tra di loro sui tassi, sulla manipolazione del mercato dei cambi, uno scandalo che emerse, se lo ricordate bene, lo scorso anno. E poi anche delle buone notizie, nel senso che sono arrivati a compimento gli 841 progetti arrivati da tutta Italia di start-up, questo all'interno di un più che premio, di un concorso che prevede un premio anche economico ma non solo, organizzato da Edison, Intesa San Paolo, Confindustria, Asso Lombarda. E la cosa bella, e ne parleremo, è che di questi 840 progetti di giovani italiani, 100 sono addirittura brevetti, e i vincitori, tra l'altro molti ne sono arrivati anche dal sud, dalla Sicilia e dalle altre regioni, e i vincitori, alcuni dei vincitori più importanti sono dalla Sicilia, i primi tre, diciamo, progetti vincitori vengono tutti dalla Sicilia, e questo ci fa particolarmente piacere. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Parleremo anche di borsa e di banche, perché le banche oggi vanno Unicredit soprattutto particolarmente male, adesso ci arriviamo. L'aggiornamento ultimo su Milano è meno 2,9%, quasi 3%, adesso siamo al 3% di calo. Devo dire, ieri abbiamo commentato le trimestrali e i primi 9 mesi di Unicredit e di Intesa San Paolo, obiettivamente gli utili erano cresciuti, c'era qualche debolezza sui ricavi. La reazione già ieri era stata molto tiepida, soprattutto su UniCredit. Ne parliamo più avanti. Sì, c'è qualcuno che chiede il delisting delle banche della borsa italiana. Attenzione, la borsa italiana è quella forse dove pesa di più quanto è indice la presenza del settore bancario. Le altre notizie in breve prima di arrivare alla borsa. Allora, per quello che riguarda l'economia internazionale, come sempre partiamo da lì, il petrolio continua a calare. Ripeto, noi siamo tutt'altro che preoccupati, perché se va avanti il combinato disposto di un euro più debole e di un petrolio in calo, abbiamo tutti i vantaggi di avere un euro debole per le nostre esportazioni, più debole rispetto ai livelli di forza, e non abbiamo gli svantaggi di pagare troppo il petrolio, perché nel frattempo il prezzo internazionale del petrolio sta calando. Ancora oggi ha perso un punto percentuale a $77 al barile. E poi una piccola finestra, apriamola anche sullo storico accordo fra Stati Uniti e Cina per la riduzione delle emissioni del gas serra, raggiunto nel corso dei negoziati definiti segreti a Pechino, e poi annunciato invece pubblicamente con soddisfazione dai presidenti sia cinese Xi Jinping che Barack Obama. I due paesi sono da soli responsabili di quasi la metà di tutte le emissioni di gas serra del mondo, del pianeta per essere più precisi, il 45% del totale. In base all'accordo, Pechino inizierà a ridurre le proprie emissioni, e questa è la critica più forte, dal 2030. Da qua al 2030 andiamo bene, però anno nel quale raggiungerà il picco, mentre Washington inizierà a ridurre le sue emissioni nel 2025. L'Europa, che in questo è all'avanguardia, ha invece il famoso piano 20-20-20 e sul 2020. Detto questo, di storico c'è che la Cina accetti di ridurre le emissioni. Non aveva mai accettato prima, e devo dire che anche Washington aveva opposto molte resistenze. Poi c'è, sempre in tema di esteri, il segretario al tesoro americano, cioè il ministro dell'economia americano, Jack Lew, che dice: il mondo non può permettersi che l'Europa perda un decennio di crescita economica. Lo status quo delle politiche in Europa non ha centrato lo status quo è che le politiche in Europa non hanno centrato l'obiettivo comune del G20 di una crescita forte, sostenibile e bilanciata. L'azione della banca centrale da sola non è sufficiente, l'Europa deve fare di più per la crescita. Allora, giusto, siamo d'accordissimo col segretario del tesoro americano Jack Lew. Un passaggio ulteriore: perché l'Europa non ha centrato l'obiettivo di una crescita forte, sostenibile e bilanciata? Perché l'azione della Banca Centrale Europea non ce la fa? Chi è che ha creato un clima così? C'è un ascoltatore che dice: quando è che lei parte con la filippica sulla Germania? Ieri l'ho saltata, anche l'altro ieri, oggi a chi se la fosse persa. Perché c'è un paese su tutti che ha impostato le politiche economiche solo, non anche, solo sul rigore e l'austerità. E questo paese si chiama Germania, va bene così? Anche oggi non resterà deluso chi voleva l'appuntamento con la Germania. E aggiungiamo che non solo il mondo non può permettersi che l'Europa perda un decennio di crescita economica, neanche gli europei e gli italiani possono permettersi che l'Italia e l'Europa perda un decennio di crescita economica. Oggi su questo è intervenuta anche la Banca Centrale Europea per voce del suo presidente Mario Draghi, che ha detto una cosa molto simile, cioè la Banca Centrale Europea farà la sua parte, ma da sola non basta, occorre stimolare la domanda, e stimolare la domanda si traduce far aumentare i consumi, che significa mettere o creare degli investimenti o aumentare i salari o liberare dalla tassazione i redditi. Non è che ci siano molte strade per creare la domanda, se il cavallo non vuole bere, non beve. Ma soprattutto o aumenti gli investimenti, quindi opere pubbliche, aumenti gli investimenti privati che creano occupazione, questo in automatico crea la domanda, oppure riduce le tasse tra chi le tasse le paga, e questo ti può portare ad aumentare la domanda, è meno certo rispetto a un occupato, cioè che un occupato consumi più di un disoccupato è cosa ovvia. Che un occupato con dei soldi più in busta paga li spenda per forza, questo non è ovvio, è il discorso del cavallo che non vuole bere, dipende dalle prospettive economiche che uno ha in mente. Però quelle sono le strade, non è che ce ne siano tante altre. Poi ha aggiunto Draghi: sono qui per spiegarvi, è intervenuto a Roma a un convegno su Federico Caffè, detto, sono qui per spiegarvi l'azione che la Banca Centrale ha intrapreso per rispondere alla crisi in cui l'area euro e specialmente l'Italia si sono trovate. Non è in gioco la perdita di sovranità, ma l'acquisto di sovranità. Perché Draghi ha fatto un ragionamento, a mio avviso, molto corretto. Qui non si tratta di perdere la sovranità, come dicono alcuni che ce l'hanno con la Banca Centrale Europea, anche in Italia. Quella l'hanno persa i paesi troppo indebitati, cioè inutile, da questo punto di vista la colpa è nostra. Quando tu hai un debito di quel livello è chiaro che di fatto sei un po' commissariato, che ne dicono alcuni partiti che fanno la campagna contro la BCE e contro l'euro. Il debito ce lo siamo creati da noi, da soli, con la lira, con le politiche degli anni 80 e anche in parte degli anni 90-2000. Lì l'Europa non ha colpa e men che meno la Germania, ben inteso. Quindi Draghi dice, se si riesce a risolvere, a risanare i conti, si riacquista la sovranità, non la si perde ulteriormente. Tra l'altro Draghi ha toccato anche il tema della disoccupazione, che è inaccettabile, è la più grande forma di spreco di risorse e va contro qualunque principio di equità. Servono meno tasse, più investimenti, ma anche le riforme, se no non bastano, e poi maggiore concorrenza. Sulle riforme, dice Draghi, da tempo se ne discute in Italia, chiaramente, ma adesso la riflessione faccia posto all'azione. Cioè, avete riflettuto per anni sulle riforme necessarie, mo fatele, traduco io. Un centinaio di studenti ha contestato la presenza del presidente della BCE Mario Draghi al convegno dell'Università di Roma 3. Uno degli studenti è stato ferito durante uno scontro con le forze dell'ordine. Adesso qua chi dice che io sono ossessionato dalla Germania avrà modo per godere, perché da un lato abbiamo un dato sulla Gran Bretagna: la disoccupazione nella Gran Bretagna si conferma ai minimi dal 2008, cioè e conferma assieme a altri dati che la Gran Bretagna è uscita da tutti i livelli della crisi ed è tornata sui livelli pre-crisi. Disoccupazione al 6%, la più bassa dal 2008. E sono scesi sotto i 2 milioni di disoccupati fra luglio e settembre in Gran Bretagna, è il 18° calo trimestrale consecutivo. L'inflazione continua a rallentare all'1,2% ai minimi da 5 anni e giustamente il cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro dell'economia britannico George Osborne, ha accolto questi dati affermando che sono il segnale che il piano del governo sta funzionando. Nel frattempo invece i saggi economici tedeschi hanno criticato fortemente le misure della Grosskoalition, che è l'alleanza che regge Angela Merkel, perché hanno detto che sono causa della frenata del PIL. Il corso di politica economica attuale rappresenta un peso sullo sviluppo economico, lo hanno scritto i saggi tedeschi, non noi che siamo ossessionati dalla Germania. E hanno anche tagliato le stime di crescita per il 2015, dando una valutazione anche più negativa di quella del governo, che stima l'1,3%, portando la crescita prevista per la Germania all'1%. Se alla Germania va bene crescere dell'1%, che era un livello che non stava bene neanche all'Italia, a posto così. La Merkel ovviamente ha respinto le critiche, ha detto che la frenata dell'economia tedesca dipende dalle crisi internazionali, non dalle misure del governo. Sarebbe interessante capire come misure non entrate ancora in vigore possono appesantire la congiuntura. Insomma, si è seccata con i suoi saggi. E poi arriviamo al grottesco, e cioè Juncker, il presidente della Commissione Europea, neopresidente, che e qui già capiamo le difficoltà che avrà Juncker nei prossimi mesi. Da un lato è nel pieno dello scandalo Lux Leaks, dall'altro oggi parla di un'urgenza di arrivare all'armonizzazione fiscale in Europa. Bisogna fare il possibile perché nell'Unione Europea ci sia una base imponibile simile per la tassazione sulle società. Ma lo dice Juncker, ecco perché il problema è politico, che per 18 anni, secondo le accuse, ha avallato, se non favorito, ma quantomeno avallato, accordi sottobanco con 350 corporate banche enormi mondiali per decine di miliardi di euro che vengono sottratti al fisco dei paesi dove queste banche o società realmente fatturano, perché venivano, diciamo, portate le sedi fiscali in Lussemburgo, con una tassazione che secondo l'inchiesta scendeva fino allo 0,43% sui profitti. Cioè, una cosa ridicola. Allora, come fai a essere credibile, Juncker, nel dire che ci vuole l'armonizzazione fiscale è una base imponibile simile se per 18 anni hai fatto l'esatto contrario? Certo, lui ha dovuto difendersi, ha detto era tutto legale, io lavoro per la trasparenza. Vabbè, ciao Core, dicono a Roma, no? Allora, le decisioni finali sono prassi consolidata, sono dichiarate legali dalla Commissione purché non discriminatorie, e questo le leggi del Lussemburgo lo prevedono. Non c'è nessun conflitto di interesse, non capisco i titoli dei giornali, e se vuoi, se vuole Juncker, li facciamo capire noi. Comunque, sentiamo questo passaggio. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non c'è nessun conflitto di interesse dal momento che la stessa Commissione ha lanciato indagini sul Lussemburgo. Non capisco i titoli che si leggono in questi giorni in alcuni giornali a questo proposito e in cui si parla di Juncker contro Juncker. Avevo detto, e l'ho ricordato al collegio, davanti al Parlamento europeo, per iscritto e oralmente, che la Commissione lotterà contro l'evasione fiscale e la frode fiscale. L'ho ripetuto nella discussione al Parlamento europeo e davanti ai gruppi parlamentari che mi hanno ascoltato prima di investirmi della carica di Presidente della Commissione. Vorrei che tutti sapessero che non sono solo parole vane, ma che rispecchiano l'intenzione e l'ambizione della Commissione. Questo farà parte del nostro programma, poiché siamo a favore di una maggior trasparenza fiscale sul territorio dell'Unione Europea. Maggior trasparenza fiscale sul territorio dell'Unione Europea. Poi però deve accettare, si rammarica Juncker, se le decisioni ad hoc con le imprese, dai, però non abbiamo una... Vabbè, devo stare tranquillo. Se le decisioni ad hoc con le imprese, tax ruling si chiama in gergo, in Lussemburgo hanno portato ad una situazione di non tassazione, allora di questo mi rammarico. Perché gli è stato chiesto, ma lei non si rammarica di nulla? Se le decisioni ad hoc, lo sentiamo per favore questo passaggio che è un inno all'ipocrisia, dai. I am politically responsible for what happened. Io sono responsabile politicamente per ciò che è successo in ogni angolo del Lussemburgo, che per fortuna è un piccolo stato. Non ho letto quelle 28.000 pagine, non sono materialmente in grado di farlo, ma se, data la interazione tra le legislazioni fiscali nazionali, le decisioni in Lussemburgo hanno portato a una situazione di non tassazione, allora di questo mi rammarico. L'applauso l'abbiamo messo noi, non è che... Non c'era presente nessuno in sala da Juncker, per favore. Un po' di serietà. Allora, poi ammette, è stato un errore aver taciuto. Oh, siamo arrivati, forse. È stato un errore aver taciuto, avrei dovuto rispondere subito a chi gli ha chiesto perché non sia andato subito in sala stampa la settimana scorsa quando è scoppiata la vicenda a chiarire la sua posizione. Secondo me l'errore è stato avallare gli accordi sotto banco. Comunque ha detto sempre Juncker che voleva proporre una direttiva sullo scambio automatico delle decisioni fiscali, cosa che ha fatto stamani. Vabbè, vabbè. Allora andiamo adesso alla parte che riguarda le informazioni meteo e pubblicità, poi l'inchiesta sulle banche, un'inchiesta che ha portato a sanzioni da 3 miliardi e 300 milioni di dollari, questo hanno deciso le autorità di vigilanza americane. Prima però ci sono degli aggiornamenti sia sul TFR, adesso vi racconteremo, nessuno sconto in busta paga, e anche sulla situazione degli operai di Terni, ne parleremo più avanti invece nel corso del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Mi avete fatto notare che giustamente non abbiamo dato ancora gli indici complessivi, chiedo venia, abbiamo dei grossissimi problemi di connessione. Comunque, per quello che riguarda il FTSE MIB, meno 2,81%. Ancora per quello che riguarda gli indici esteri, adesso chiedo un attimo di pazienza perché si sono bloccati gli interi sistemi, lo facciamo dopo 3 minuti di pazienza, dopo il metro pubblicità. Focus Economia. 17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Siamo riusciti a rimettere, a ricollegarci con gli indici telematici. Vabbè, un po' di tensione che voi non avete ascoltato perché c'era la pubblicità e il meteo, meno male. Allora, brutta la giornata, adesso fate le battute, molto brutta la giornata a Milano, meno 2,87%, Parigi meno 1,5%, Francoforte meno 1,70% e Londra meno 0,35%. L'America perde lo 0,11%, ma oggi è veramente pesante tutto il settore bancario, motivo per cui Milano perde un punto percentuale più del resto d'Europa. Pop Milano meno 7,30%, Monte dei Paschi meno 6,5%, Pop Emilia Romagna meno 6%, Unicredit meno 5,60%, queste sono le chiusure. Banco Popolare meno 4,20%, Intesa San Paolo meno 3,60%, ancora Mediobanca meno 3,44%, UbiBanca meno 2,70%. Mediaset molto forte anche oggi, più 6%, Moncler più 4%, Fiat di nuovo forte, più 2,20%, Saipem più 1%. Ferragamo più 0,60. Euro a quota 1,24,62. Della ST Terni parliamo fra un attimo, a chi rispondo, a chi me lo sta chiedendo via SMS e mail. Vorrei invece restare in tema di banche, ma non le banche italiane, le banche anglosassoni, o meglio, i colossi bancari mondiali: Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, HSBC, perché c'è anche la Svizzera, certo, e UBS, appunto, le due banche svizzere, dovranno pagare una multa per complessivi 3 miliardi e 300 milioni di dollari come conseguenza dello scandalo scoppiato sulla manipolazione del mercato dei cambi, scandalo scoppiato lo scorso anno. In particolare UBS, Unione delle Banche Svizzere, dovrà pagare 800 milioni di dollari, Citigroup 670 milioni, JP Morgan 660, Royal Bank of Scotland 634 e HSBC 620 milioni di dollari. Le multe le hanno inflitte le autorità americane, britanniche e svizzere, per cui diciamo è una multa articolata. Ci racconta la vicenda e anche come si è arrivati a questa sanzione il collega che ne ha scritto, oltre che investigato, del Sole 24 Ore, Claudio Gatti. Buonasera Claudio. Buonasera a voi. In collegamento da New York con noi. Allora, intanto l'ammontare era quello atteso o la sanzione è vera? Perché letta così è una batosta come poche, però abbiamo visto anche nei mesi passati che già qualcosa era circolato. Claudio? Innanzitutto c'è da dire che le autorità britanniche, insieme a quelle americane e quelle svizzere, hanno per ora multato, sanzionato soltanto alcune banche. Per esempio, la banca che ha la più grande, più grossa quota del mercato degli scambi valutari, che è Deutsche Bank, non è inclusa perché gli inglesi hanno detto che non hanno trovato motivo di multarla, ma la banca è ancora investigata dalle autorità americane e tedesche. Dopodiché la Barclays, che è una delle altre grandi banche del settore, una delle quattro maggiori che controlla da sole il 53% del mercato dei cambi, non è inclusa nell'accordo. Ci sarà un accordo separato per quindi Barclays. Barclays avrà diciamo una sanzione a parte? Esatto. Quindi siamo soltanto all'inizio e qui comunque ci sono due fronti: c'è il fronte delle sanzioni delle autorità di vigilanza e poi c'è il fronte invece delle cause civili, perché qual è il problema di fondo? Che si è scoperto che i trader di queste banche operavano con una sorta di cartello più o meno informale e si accordavano sui valori del cambio, ma ai danni dei loro stessi clienti. Spieghiamo bene l'accusa, perché una multa così alta, che appunto non riguarda ancora Barclays, riguarda due gruppi, uno totalmente britannico come Royal Bank of Scotland, un altro che è a metà tra Hong Kong e Gran Bretagna come HSBC, però c'è ancora Barclays fuori. Il perché di multe così alte, l'accusa che tra l'altro ha portato, per quello che riguarda la Banca Centrale d'Inghilterra, la Bank of England, a destituire il responsabile del settore valute, ce l'hanno licenziato, Martin Mallett, lo riporta tutte le agenzie. Secondo la Banca d'Inghilterra, Mallett era consapevole che i trader delle banche si scambiavano le informazioni sugli ordini dei clienti allo scopo di manipolare i prezzi. Secondo l'indagine, Mallett non ha agito in malafede e non è stato coinvolto in condotte illegali, ma era consapevole. No, faccio notare che la Bank of England licenzia il suo responsabile del settore valute. So già l'obiezione che arriverà dai messaggi nella vicenda Monte dei Paschi, mi riferisco allo scandalo e alle inchieste. La Banca d'Italia apparentemente non ha nessuna responsabilità, ne prendiamo atto. C'è in quasi, secondo la Banca d'Inghilterra, una responsabilità indiretta in qualche modo, oggettiva, perché dice non ha agito in malafede, non è stato coinvolto in conto illegali, ma non puoi stare più lì visto lo scandalo che hai fatto. Ecco, se posso permettermi, anche in Banca d'Italia, dopo quello che abbiamo visto nelle prime fasi dei processi che riguardano Mussari, Baldassarre and Company, forse nessun tipo di reato, nessun tipo di condotta illegale, ma quantomeno una responsabilità oggettiva nel dire ma tu dov'eri, non ce l'hai fatta vigilare, quelli stavano facendo saltare per aria la banca, forse. No, un po' più, ma qui c'è un problema di fondo e di cultura. Vabbè, c'è una parola nel mondo anglosassone, in inglese, che è accountability. L'accountability non esiste neppure in italiano, perché la reputazione esiste in italiano come parola, cioè, se vogliamo uno potrebbe dire, ma accountability è un concetto di assumersi la responsabilità di certe cose che si fanno o non si fanno. Se pensiamo agli scandali come quelli della Banca di Lodi non c'è stato mai accountability per le autorità di vigilanza. Sì, più accountant che accountability. Allora, restiamo allo scandalo qual è il danno che creavano i clienti e perché sanzioni così elevate? Claudio Gatti, raccontiamo bene qual era il meccanismo. Beh, innanzitutto c'è una cosa, che il mercato è ricchissimo, è il mercato finanziario come settore più ricco, perché è un volume di 10 volte superiore a quello registrato quotidianamente in tutte le borse del mondo, parliamo di 5.000 miliardi di dollari al giorno di cambi, e che pur essendo così grande e quindi così ricco è ristrettissimo in termini di cosiddetti players, cioè i maggiori protagonisti, cioè come ho detto 4 banche hanno il 53% del mercato, 2 Londra e New York da soli coprono il 60% del mercato. Allora, a questo punto diventa facile per chi opera e per i trader di coordinarsi, essendo pochissimi. Quello che succedeva è che avevano trovato un sistema attraverso soprattutto messaggi, instant messages, di scambiarsi informazioni e anche sulle loro stesse operazioni, nel senso che se tu sai che un tuo grande cliente, parliamo qui di fondi pensioni, fondi certo, investimento, quindi scambi enormi, e sta per fare un'operazione, se ti muovi prima tu puoi avere trarre vantaggio. Facciamo un esempio, io sono un grande fondo pensione, voglio spostare dollari su euro, euro su dollari, cambia poco, per valori di milioni e milioni di dollari o di euro quel giorno, quindi parliamo di decine di milioni, con una conseguenza sul mercato dei cambi. Che cosa capitava? In pratica i trader interessati comunicavano tra loro questa informazione e operavano sui cambi prima, a volte, o con dei cambi diciamo coordinati tra di loro. Quindi la differenza era minima, ma su delle cifre enormi, così enormi diventavano dei, cioè, valori. Di che differenza stiamo parlando? Perché noi sappiamo che è difficile muovere in maniera sostanziale il mercato dei cambi, perché è vero che il 53%, come tu ricordavi, si gioca tra Londra e Wall Street, ma i soggetti che operano sono tantissimi. Cioè solo il 53% sono solo quattro banche, è vero. Deutsche Bank, UBS, Barclays e Citibank da solo sono al 53% del mercato. I trader di ognuna di queste banche non sono tantissimi, no. Quelli importanti sono pochi. No, ma dico, un conto è dire come fai a portare l'euro su dollaro da 1,44 a 1,20, non ce la fai da solo. Altra cosa è lavorare, come tu dicevi, sui decimali. Cioè, adesso faccio un esempio, adesso l'euro sul dollaro è 1,24,60, ok? Loro lavoravano sui decimali, non lavoravano su grossissimi movimenti. Certamente, ma in più sapevano che prima che si fosse registrata una grossa operazione di cambio, sapevano come sarebbe avvenuta e che avrebbe avuto un impatto sul cambio stesso. E quindi perché se tu sai che io vado a vendere 50 milioni di dollari o 100 milioni di dollari in cambio di... diciamo pure un miliardo. No, infatti io stavo ragionando su variabili molto basse. Beh, era per dire, se ci sono 10 soggetti che vogliono fare uno spostamento, un'operazione da un miliardo di dollari su euro, tu sai che a quel punto, vendendo dollari e comprando euro, l'euro si rafforzerà un pochino e il dollaro si indebolerà un pochino. Che cosa facevano loro? Andavano a... facevano altre operazioni nel senso opposto, su questo. E quindi compravano prima dell'operazione, sapendo delle conseguenze che avrebbe avuto sul mercato. Il punto chiave è capire se le banche erano consapevoli o meno, e sembra, da quello che hanno detto le terre inglesi, che comunque anche lì c'era una responsabilità come minimo oggettiva. Il Dipartimento della Giustizia americana sta indagando, invece ci ha aperto un fascicolo penale, perché sta studiando la possibilità di inviare a giudizio addirittura una banca e non più i traders. Sì, il principio, sul principio dell'accountability, della responsabilità oggettiva, dell'assumersi le responsabilità, potremmo fare un'intera puntata, forse non basterebbe. Scrive un ascoltatore, non c'è nulla da fare, in Italia, l'Italia è il paese della colpa, il problema è che la colpa è sempre di qualcun altro, appunto, che è il principio opposto all'accountability. Lì esiste un principio sulla Banca d'Inghilterra di responsabilità oggettiva. Ripeto, nessuno ha accusato il licenziato responsabile del settore valute, Martin Mallet, di aver avuto un interesse, un coinvolgimento, condotte illegali o di aver agito in malafede. Semplicemente responsabilità oggettiva vuol dire che tu eri lì, eri responsabile del settore valute nel momento in cui scoppiava questo scandalo. Te ne devi andare, perché non c'è neanche l'accusa di omesso controllo, non so come dire, è semplicemente il fatto che non puoi più stare lì perché, tra virgolette, evidentemente non sei così capace, o comunque è una responsabilità oggettiva. Anche se tu non eri, non hai avuto nessun altro tipo di responsabilità, e magari non puoi stare lì, fine, nessuno ti dà la colpa, ma te ne devi andare. È un principio etico e filosofico che in questo paese usiamo molto molto poco, perché uno dice no, ma io c'ero, però la colpa non è mia, io ho controllato, ma c'erano altri. No, l'invasione delle cavallette, quella dei Blues Brothers. Grazie a Claudio Gatti in collegamento con New York. Il traffico. Focus Economia. Soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette, non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. Ecco, questo è tutto l'opposto dell'accountability, come si dice in Gran Bretagna. Cioè, quando c'è sempre una scusa altra per non assumersi le responsabilità, ripeto, oggettive. Tu sei in un posto in cui capita una cosa, non è colpa tua, non hai nessun interesse, non c'è nessun reato, ma te ne vai perché eri tu in quel momento il responsabile più alto. Questo è un principio di responsabilizzazione che è l'opposto del mitico John Belushi in Blues Brothers, quando deve giustificare perché non si presentò al matrimonio. Un po' di ironia in una giornata in cui avremo anche delle buone notizie, adesso però no, perché continua invece, o meglio, gli operai della CT di Terni hanno liberato l'autostrada del sole che avevano occupato nella tarda mattinata di oggi. Questo perché i sindacati hanno avuto assicurazioni che la trattativa sul piano industriale riprenderà da domani. Ieri erano riprese le trattative dopo uno stallo di un mese. L'azienda aveva pagato, come ricorderete, nel fine settimana gli stipendi ai lavoratori, e un mese fa tutto si era bloccato per l'avvio da parte dell'azienda della procedura di messa in mobilità di oltre 530 dipendenti. I lavoratori in realtà sono ancora in sciopero, cioè loro hanno sbloccato la parte amministrativa che doveva pagare le buste paga da 22 giorni per la precisazione. Lunedì 17 i rappresentanti sindacali andranno a Monaco per un incontro con i vertici della ThyssenKrupp, mentre martedì 18 proseguirà il negoziato presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Ci aggiorna sul perché di una nuova, diciamo, non una nuova tensione, ma una nuova reazione dura da parte dei sindacati e degli operai, la nostra Cristina Casadei del Sole 24 Ore. Buonasera Cristina. Buonasera, grazie intanto. I lavoratori hanno, e anche un po' i sindacati, in realtà hanno vissuto il piano industriale che è stato presentato dall'azienda ieri al MISE come una provocazione. E una provocazione per loro è anche il fatto che il negoziato riparta in realtà tra una settimana, perché il ministro Guidi domani ha convocato i sindacati, perché è evidente che in questa vicenda la pace sociale sociale è un po' a rischio. Oggi si sono formati più di 9 chilometri di code sull'autostrada e l'Italia è stata letteralmente divisa a metà. Ecco, l'azienda ieri ha confermato di volere fare degli investimenti, non sono stati quantificati, loro dicono per ragioni finanziarie, cioè perché ThyssenKrupp sta per presentare il bilancio e quindi per evitare delle turbative di mercato non hanno dato delle cifre, però hanno detto che manterranno aperti i due forni con come dire modalità diverse, nel senso che uno rimane aperto 7 giorni su 7 su tre turni, l'altro 5 giorni su 7 sempre su tre turni, e garantiranno però soltanto 1 milione di tonnellate di acciaio. Ecco, perché la ST Acciai Speciali Terni, io lo ricordo ogni volta perché male non fa, è uno dei principali produttori al mondo di laminati piani di acciaio inossidabile, ha un giro d'affari di 2 miliardi e 300 milioni di euro, e quindi è da questo punto di vista opera in un settore dove non c'è crisi, non so come spiegare, perché sull'acciaio abbiamo fatto intere puntate, c'è una crisi dell'acciaio italiano che resta l'Italia il secondo produttore europeo di acciaio, c'è una crisi dovuta anche alle dimensioni oltre che alle vicende, vedi famiglia Riva su Taranto, ha un problema dimensionale, al fatto che i player mondiali sostanzialmente sono indiani o brasiliani e hanno dimensioni enormi, però non c'è una crisi di carattere produttivo, cioè non è che il prodotto che esce da Terni, questo mi fa imbestialire, sia un prodotto di bassa qualità o che non ha più mercato. La produzione di 1 milione al giorno, quanto vuol dire rispetto alla produzione normale? Ora, i sindacati dicono che per mantenere gli attuali livelli occupazionali servono 1.300.000 tonnellate. Quindi ovviamente loro capiscono questo, che intanto l'apertura dei forni, dimenticavo di dire, che è garantita solo per 2 anni, e questo è un altro dei punti che ha creato tensione, perché significa come dire un po' posticipare poi gli esuberi che inizialmente erano 550 e che secondo il piano che è stato presentato ieri al Ministero diventano 290. Di questi poi 150 circa usciranno volontariamente e ne restano 150, cioè i posti a rischio sono poco più di 150. Sì, rispetto ai 530 iniziali, è chiaro che si va a contenere il danno minore. Poi nei prossimi giorni faremo anche una puntata, magari la facciamo venerdì, sulle scelte di politica industriale. Da più parti si è detto occorre fare intervenire la Cassa Depositi e Prestiti, creare una nuova IRI tra virgolette per la siderurgia. C'è chi invece dice no, troviamo una cordata italiana, in particolare per quello che riguarda l'ILVA di Taranto, e lì l'ipotesi Arvedi, e quindi gruppo Arvedi, ipotesi Marcegaglia, oppure una partecipazione mista. Personalmente penso che l'Italia non possa perdere un altro settore produttivo così cruciale come quello dell'acciaio, e che non è in crisi, nel senso che di domanda d'acciaio ce n'è sempre di più a livello mondiale, ce n'è poca in Europa forse, ma non è questo il problema. Comunque, e continueremo col doppio passo di tenervi aggiornati sulla vicenda sindacale di Terni, e non solo, c'è anche Piombino, e invece cercare di ragionare anche alzando lo sguardo sulle strategie, diciamo, e non solo sulla tattica di politica industriale. Grazie intanto alla collega del Sole 24 Ore Cristina Casadei. Adesso andiamo con GR24, poi la borsa e una buona notizia: le centinaia di giovani che hanno partecipato a un premio sulle start-up l'hanno vinta, alcune chiaramente. C'erano 100 su quasi 1000 progetti arrivati, 100 hanno avuto un brevetto. La cosa che a me fa particolarmente piacere, senza retorica, che molti sono arrivati dal sud e i vincitori sono 3 siciliani. Ne parliamo dopo. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Di 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa e poi una buona notizia per il doppio aspetto che riguarda i giovani e le start-up, cioè progetti, e ripeto, in molti casi già diventati brevetti di nuove imprese, e il fatto che i premiati da questa giuria e per questo premio di Edison, ma che vedeva il coinvolgimento diretto anche di Assolombarda, Confindustria e Intesa San Paolo, i premiati, dicevo, sono tre giovani siciliani. Partiamo subito con gli aggiornamenti, però. Allora, flash d'agenzia di questi istanti, il dato sul Monte dei Paschi di Siena, la trimestrale e quindi anche i primi nove mesi dell'anno. La perdita per il Monte dei Paschi è di 1.150.000.000 di euro. Adesso vi daremo anche gli altri aggiornamenti di agenzia, e questo ci porta subito a commentare la giornata di borsa. Meno 2,87% Milano, è un calo significativo, anche perché è superiore di almeno un punto percentuale al resto d'Europa. Parigi meno 1,50%, Francoforte meno 1,70%, Londra meno 0,25%, l'America è invariata. Che cosa ha penalizzato Piazza Affari? Non certo Mediaset, che ha guadagnato il 6%, o Moncler, che ha guadagnato il 4%. Bene anche Fiat Chrysler, più 2,20, Saipem più 1 e Salvatore Ferragamo più 0,60. Male, pesantemente male, tutto il settore bancario, con la Popolare di Milano che perde il 7,30%, il Monte dei Paschi il 6,5% e si riporta a 63 centesimi di euro per azione. Prima ricordo che prima degli stress test il titolo era intorno a un euro per azione, quindi siamo quasi di nuovo a un 40% di calo, un po' di meno da quando sono usciti gli stress test. Poi la Popolare Emilia Romagna meno 6%, Unicredit meno 5,60%, Banco Popolare meno 4,20%, Intesa San Paolo meno 3,60%. Chiudo con UbiBanca, che ha perso il 2,70%. Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Insomma, sono piaciuti i bilanci delle banche. No, ma è quello che non capisco, al di là della battuta, ma insomma, ieri li abbiamo raccontati, abbiamo avuto anche un approfondimento, ieri erano i due big, Unicredit e Intesa San Paolo. Obiettivamente gli utili erano in aumento, i ricavi in alcuni casi forse sono un po' deluso, ma insomma, non abbiamo visto dei bilanci con delle sorprese negative. Che è successo oggi? Beh, ti faccio un esempio, Unicredit ha sì mostrato un incremento dell'utile molto forte, ma oggi alcuni analisti hanno ragionato sui conti, hanno visto dei ricavi che hanno subito una leggera flessione del 3%, un utile operativo che anch'esso è sceso leggermente, e hanno concluso che gli accantonamenti sui crediti sono stati inferiori alle attese, quindi questo lascia insomma intuire un timore da parte degli analisti che le famose sofferenze non siano state portate non solo in Unicredit ma in tutte le banche italiane realmente, diciamo, chiarita la luce del sole. Di qui il fatto, sì, bilanci positivi, ma forse i bilanci delle banche nei prossimi trimestri dovranno ancora scontare diciamo le conseguenze della crisi. Se ci aggiungiamo anche qualche realizzo, insomma, visto che alcuni di questi titoli avevano guadagnato nei giorni scorsi, non è il caso del Monte dei Paschi, diciamo che il quadro è un pochino più chiaro. Allora, sul Monte dei Paschi mi sembra che, insomma, adesso è uscito anche la trimestrale, i primi nove mesi, e li ricordavo, però insomma, il giudizio è abbastanza netto anche oggi per quello che riguarda il mercato. Perché così male la Pop Milano? Ma anche questo, diciamo, è un caso abbastanza non inspiegabile, però comunque Popolare Milano nel trimestre è andato addirittura meglio delle previsioni, quelle che erano del mercato, evidentemente insomma, dopo i guadagni che c'erano stati in questo caso dopo, per BPM, dopo gli stress test da cui la banca si era, diciamo, salvata per un pelo, c'è stato qualcuno che ha comprato in vista della trimestrale e poi ha alleggerito, diciamo, la posizione. C'è anche da dire che poi non ci sono in alcuni casi vendite singole sui titoli, ma magari c'è anche chi va a vendere diciamo dei basket più grossi di titoli che comprendono vari titoli bancari. Sì, devo dire, appunto, anche la trimestrale della Pop Milano non era stata così male. Comunque il giudizio è negativo su tutto il settore bancario. Poi c'è Enel, lì invece il debito è stato rivisto in rialzo, il debito entro fine anno, il titolo perde il 5,90%, molto male anche Campari, meno 5,70%, poi Buzzunici meno 3,40%. Allora, Enel, se vuoi anche Campari, e però diamo anche conto dei rialzi, soprattutto Mediaset e Moncler. Sì, diciamo che per Enel la spiegazione è un pochino più facile. Diciamo prevedi che un debito in aumento. Qui c'era su tutte le utility il target, diciamo che il focus del mercato è sulla riduzione del debito. Qui Enel aveva fatto delle promesse importanti, in questo caso le ha riviste leggermente a rialzo, cioè leggermente, è passato da un target del debito per fine anno di 37 miliardi a 39 miliardi e mezzo, quindi chiaramente il mercato era un pochino penalizzata. Per quanto riguarda Campari, utile netto di 9 mesi, meno 21%, 117 milioni, qui insomma la conseguenza è un po' quella, insomma, il mercato ha guardato i conti, ma anche Campari insomma è rimasta coinvolta nel turbinio di vendite di oggi. Beh, no, ma lì dico rispetto, col massimo rispetto per i bancari, ma insomma, in Campari è più comprensibile, hai un meno 21% e mi sembra che non sia la prima, adesso vado a memoria, non è la prima trimestrale in cui Campari perde, per cui c'è probabilmente un problema anche di consumi, di mercato, ma sulle banche, ripeto, è più inspiegabile se uno va a guardare i bilanci, nel senso che alcuni possono aver deluso, altri meno, ma da lì a vendere tra il 7 e il 4% i titoli bancari mi sembra troppo, ripeto solo come osservazione. Andiamo avanti con i migliori invece, Mediaset e Moncler. Beh, per quanto riguarda, diciamo, qui ci sono anche qui il focus sono le trimestrali, certo. Mediaset, però se vogliamo scorporare un'indicazione più importante per quanto riguarda novembre, per quanto riguarda il mercato pubblicitario, ha dato un'indicazione di stabile rispetto all'anno scorso, a novembre 2013, o addirittura in crescita, che sarebbe, diciamo, un'importante inversione di rotta, visto che ahimè il mercato pubblicitario crolla da diversi trimestri, ormai da quasi 2 anni. Per quanto riguarda Moncler, invece, si parla di lusso, Moncler fa più 4,1%. Per inciso ha trascinato anche a rialzo altri titoli oggi, per esempio Ferragamo ha fatto più 0,6%, qui abbiamo una crescita a doppia cifra nel trimestre nei 9 mesi e il titolo è stato premiato dal mercato. Ancora tra altri titoli segnalo invece nel lusso Luxottica perde l'1,70%, Tod's l'1,80%, Mediolanum invece l'1,70%, Snam meno 2%, Enel Green Power meno 2,25% e sempre a cavallo, diciamo, sul lusso World Duty Free meno 2,30%, Eni ha perso il 2,60% come Pirelli, Atlantia e A2A. E Autogrill ha perso il 3,1%. E migliori e peggiori in assoluto, allora, peggior titolo Sintesi meno 8,77%, Seat pagine gialle meno 8,30%, e poi la Popolare di Milano, miglior titolo Industria e Innovazione più 8,14%, Mediaset più 6%, Exprivivia più 6,70%, e Alcatel Lucent più 3,70%. Grazie a Ceo Condi, a Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso il traffico e poi appunto le start-up arrivate e premiate, i giovani che hanno in mente un'idea innovativa di impresa, e cerchiamo di capire anche come questo non resti però semplicemente uno slogan, così un premio un po' de argent de poche, come dicono i francesi, di argento, di soldi dalla tasca, ma nulla più. Mi sembra di poter dire che c'è anche un'attività e un'organizzazione più strutturata perché queste idee diventino poi imprese vere e proprie, e Dio sa quanto ce n'è bisogno in questo periodo. Traffico. Focus Economia. Cosa c'entrano una traversa ferroviaria fatta di plastica con dei pneumatici riciclati per produrre energia al passaggio dei treni, con un software per il montaggio dei parcheggi liberi e un programma di turismo etico presso un immobile confiscato alla mafia? Questi tre progetti, la traversa ferroviaria fatta di plastica e pneumatici riciclati che produce energia al passaggio dei treni, il software per il monitoraggio dei parcheggi liberi e un programma di turismo etico presso un immobile confiscato alla mafia, hanno in comune il fatto che vengono tutti dalla Sicilia e sono tutti e tre i progetti vincitori di Edison Start, concorso per idee più innovative nell'ambito dell'energia, dello sviluppo sociale e delle smart communities lanciato da Edison per i suoi 130 anni. Edison lo ha realizzato usando però la consulenza e il supporto da un lato della Confindustria di Assolombarda, dall'altro di un team di manager della società di professionisti della Bocconi di Milano, del Politecnico di Milano, e partner del progetto è anche Intesa San Paolo. Siamo in collegamento con uno dei membri della giuria, nonché consigliere della Fondazione Edison, Andrea Prandi, buonasera. Eccomi qui, buonasera a tutti. Allora, dicevo, intanto che quanti progetti sono arrivati e se alcuni, al di là di non aver vinto, sono già diventati brevetti? Allora, ci sono 850 progetti, un bel numero, la metà di questi vengono diciamo da alcuni individui, studenti diciamo così, tutti gli altri sono da società già più strutturate e infatti esistono già 150 brevetti circa, e quindi mi sembra un fatto importante che ci sia un'esclusiva tecnologica che è uno dei fattori poi vincenti per qualsiasi startup. Da dove sono arrivati questi progetti quanto a regioni italiane? Siamo andati in giro per l'Italia per diversi mesi, siamo partiti proprio dalla Sicilia, forse sarà un caso, proprio tre vincitori sono siciliani, e siamo andati ospiti di Confindustria in varie regioni e abbiamo avuto modo di incontrare molti imprenditori per cercare di creare anche un po' di word of mouth, un po' di passaparola. E praticamente poi il risultato è stato che la regione che ha fatto più progetti è la Lombardia, nei primi posti, quindi ci sono i primi tre posti, ci sono regioni del nord, ma già al quarto posto c'è la Sicilia per numero di partecipanti, anche la Campania è ben posizionata, quindi diciamo che abbiamo avuto una risposta molto buona. E poi c'è un tema di qualità, le proposte che venivano per esempio in questo caso dalla Sicilia sono state molto valide, e valide sulla base di che cosa? Per la fattibilità, per il team di persone che si è presentato, per l'interesse che questo può avere non solo a livello locale ma a livello mondiale, e quindi tutti questi fattori hanno fatto sì che poi abbiano vinto in tutte le categorie progetti siciliani, hanno fatto abbastanza sorprendente anche sì, ma per questo me. Dimostra, ripeto, senza retorica, senza voler fare tutto nel bonfascio, dimostra che in realtà il problema anche nel nostro Mezzogiorno è liberare queste risorse da logiche clientelari, da logiche mafiose, da logiche camorristiche, da logiche di politica che pensa solo a se stessa. Non è che manchino le idee, anche perché, come spesso abbiamo detto, i giovani di adesso hanno sicuramente moltissimi svantaggi rispetto a chi era giovane 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, ma hanno un grossissimo vantaggio, ossia la rete permette a loro di accedere alle stesse informazioni anche se abitano a Canicattì piuttosto che a Legnago o piuttosto che a Busto Arsizio e non a Hong Kong, New York, Londra, Milano, mentre una volta obiettivamente risiedere in un grande centro metropolitano o risiedere in un piccolo paese di provincia faceva la differenza, c'era un gap in chi stava in provincia. Adesso la rete ha, da questo punto di vista, permesso e permette, se hai la banda, se hai un minimo di connessione, e questo è l'altro tema, di avere le stesse possibilità d'accesso che ha un giovane tuo coetaneo a Hong Kong, a Shanghai, quindi quello è un vantaggio enorme. Poi certo che la situazione esterna quanto a occupazione è sicuramente di gran lunga peggiore rispetto a 10 o 20 anni fa. Restiamo sui progetti. Quanto assegnate ai vincitori e che cosa capita dopo? Perché a me una cosa che non piace dei progetti di startup è che delle volte, lo dico in maniera molto tranquilla, Prandi, sono fatti più per il marketing di chi li lancia che non per aiutare chi presenta l'idea. Voglio dire, dai un po' di soldi, ti sei fatto pubblicità perché hai fatto vedere quanto ci tieni allo sviluppo delle startup e poi passata la festa, gabbato lo santo. Ci sarà un follow up, ossia un ritorno, un mantenimento di questi progetti? Certo, ci sarà una seconda edizione, siamo già praticamente, se uno va online sul sito della Edison trova già il regolamento della nuova edizione, si chiamerà Edison Pulse, quindi abbiamo cambiato anche il nome per far vedere che è una cosa nuova, in effetti cambia un po' perché cambiano le categorie, saranno due categorie, una legata più al progetti per il territorio, supporto del territorio, e il nostro paese ne ha bisogno, e un altro legato al mondo dell'energia. Ora non è che vogliamo, ci aspettiamo che di recuperare il terreno perso rispetto alla Silicon Valley per esempio sui progetti green, però ecco, qualcosina in più lo dobbiamo fare. E mi permetto di dirti che non sono completamente d'accordo sul fatto che poi queste cose non servono se i soldi ci sono, perché mettiamo 100.000 euro, ma e come dici tu li seguiamo per un altro anno poi nello sviluppo del loro progetto. Però molto spesso ci sono dei venture capitalist che fanno solo l'investimento finanziario. In questo caso quello che fa un po' la differenza secondo me è il fatto che ci sia un'impresa importante italiana come Edison che mette a disposizione il suo management per seguire questi progetti e che in ultima istanza può anche essere un'azienda che compra servizi da quelle. Beh, sì, e quindi c'è anche un'innovazione che a noi interessa supportare la nascita di imprese intorno. No, non c'è nulla di male, però, se poi voi come Edison utilizzate e sfruttate in senso buono parte di questi progetti. Quello che a me è piaciuto, del motivo per cui ne stiamo parlando, è che ci fosse anche la partnership di Intesa San Paolo, cioè di una banca, e della Bocconi di Milano, del Politecnico. Con la banca, per esempio, con Banca Intesa abbiamo rifatto, praticamente rifatto i pitch. Sapete, pitch è la presentazione, no, di questo. Molto spesso per ottenere finanziamenti ulteriori questi devono realizzare delle presentazioni che siano comprensibili per il mondo finanziario. Poche di queste presentazioni lo erano, grazie anche alla consulenza di Banca Intesa. Oggi loro hanno un prodotto, cioè una proposta, un progetto che possono andare a presentare a qualsiasi venture capital nel mondo. Possono andare in California e fare una presentazione degna di una startup californiana, e quindi questo è anche fondamentale, perché poi appunto i soldi li devi recuperare laddove ci sono, e quindi che sia crowdfunding, che sia un venture capital, cioè qualcuno che di lavoro mette i soldi per fare partire nuove imprese, o che sia un gruppo già esistente da 130 anni come voi, poco cambia dal mio punto di vista. Invece, dicevo, importante anche la consulenza dell'Università Bocconi, del Politecnico, della Solombarda, perché appunto non è semplicemente un'operazione di marketing. Bocca al lupo a tutti i partecipanti, a maggior ragione visto che 100 su 840 sono già brevetti, e in bocca al lupo e complimenti ai tre progetti vincitori, tutti e tre dalla Sicilia. Li voglio ripetere perché così capiamo anche di cosa stiamo parlando: una traversa ferroviaria fatta di plastica e pneumatici riciclati che produce energia al passaggio dei treni, che bella cosa, un software per il montaggio dei per il monitoraggio dei parcheggi liberi, e un programma di turismo etico presso un immobile confiscato alla mafia. Grazie al consigliere della Fondazione Edison, nonché membro della giuria, Andrea Prandi. Visto che siamo in conclusione, vorrei far ascoltare, di solito lo facciamo all'inizio del programma, però i 100 secondi che sono partiti da lunedì di Radio 24 e vanno in onda, i Sole 24 Ore vanno in onda sia su Radio 24 che su RDS, Radio Dimensione Suono, oggi erano dedicati, lo ha fatto il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli, proprio alle eccellenze italiane nella tecnologia, partendo da questa famosa sonda che di cui tutti ormai stiamo parlando, anche chi non ci capisce come è sottoscritto nulla, una nulla. Allora, Alberto Rioli e le eccellenze italiane. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Rioli. Come si dice quando una navetta spaziale si posa su una stella cometa? Conosciamo l'atterraggio, l'ammarraggio, l'allunaggio. Ora dovremo impratichirci anche con il brutto neologismo dell'accometaggio. Già, perché è così straordinaria l'avventura del lander Philae, che si posa sulla cometa GCG67P, che non abbiamo nemmeno una parola per descriverla. L'avventura spaziale della sonda Rosetta, da cui il lander si è staccato 2 giorni fa, è un'eccezionale prova di lungimiranza strategica, perché è iniziata 10 anni fa, ed è anche un rilevante campionario di una parte del Made in Italy, che troppo spesso tendiamo a dimenticare. Sono italiani i sistemi di controllo di bordo della sonda, i sottosistemi del lander, lo spettrometro che analizzerà le parti solide della cometa, italiano il sistema di rilevazione delle polveri, così come gli strumenti per i carotaggi e tutti i sistemi di simulazione a terra che hanno consentito di formare la squadra del flight control. L'avventura di Rosetta ci insegna che c'è un'Italia della ricerca e della tecnologia poco raccontata, eppure vitale e centrale per il vero rinascimento del nostro paese. C'è una manifattura legata alla ricerca che vale 400 miliardi di esportazioni. Il Made in Italy è sì lusso, moda, vini, abbigliamento e mobile di design, ma è anche, per il 70% del nostro surplus commerciale, frutto di settori quali l'automazione meccanica, i robot, la produzione di nicchia, della chimica, della gomma, della farmaceutica, dove addirittura l'Italia ha avuto la più importante performance quanto a esportazioni. Il commercio mondiale si può dividere in circa 5.500 prodotti, oltre un terzo dei quali l'Italia è tra i primi 5 paesi del mondo. A volte davvero la materia prima che ci manca è l'orgoglio. D'accordissimo con Alberto Orioli, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.